4B. Ascolta e rispondi. Siete in vacanza? Sì, siamo in vacanza. Siete in ritardo? Sì, siamo in ritardo. Siete a casa? Sì, siamo a casa. Siete in piazza? Sì, siamo in piazza. Siete in vacanza? No, non siamo in vacanza. Siete in ritardo? No, non siamo in ritardo. Siete al lago? No, non siamo al lago. Siete in piscina? No, non siamo in piscina.